Fujiko Factory. D'eccezione. Buon mercoledì di Fujiko Factory, io sono Lucri e inizia anche oggi una nuova puntata del nostro Fujiko Factory d'eccezione. Come sempre saremo in vostra compagnia fino alle 17, io occuperò la prima mezz'ora in cui, come lunedì per chi ha ascoltato il Fujiko Factory del lunedì, vi racconterò, oltre a mettere dei brani e parlarvi un po' di questi, anche di curiosità inutili che quando scoprirai vorrei raccontare a tutti. Quindi sarà una sorta di lucripedia in cui vi racconterò un po' di informazioni, un po' di curiosità che poi sarà bello se vorrete condividerle. Alcune a me fanno molto ridere, altre effettivamente sono cose che sono interessanti da scoprire, come ad esempio che i croissant sono originariamente austriaci e non francesi, oppure che in un mazzo di carte il re di cuori è l'unico senza baffi. Notizie del genere in Lucripedia, ma partiamo con il primo brano, che è Come di Jane, che è il singolo della cantautrice francese pubblicato nel 2015. Quindi gasiamoci subito con il primo pezzo qui a Radio Città Fujiko. Factory, come vi ho anticipato in questa mezz'ora, un po' di lucripedia e soprattutto tanta musica. Abbiamo appena iniziato con Cam, ma ci sono notizie che nessuno sa e che, o comunque che non si è mai chiesto, e che abbiamo deciso di riunire per formare una lista che vi trasformerà in un'enciclopedia vivente, da cui anche il nome di questa puntata, Lucripedia. Quante ore passa un umano fermo ad un semaforo? Quante cose meravigliose si possono fare con un foglio di carta? I biscotti possono raggiungere la luna? Queste sono alcune di quelle domande in cui cercherò di rispondervi. Ho già raccontato dei croissant, delle carte, ma ad esempio lo sapete che in media le persone spendono in totale 2 settimane di vita aspettando il semaforo verde? Soprattutto per chi abitualmente, a parte in questo periodo, fa i viali di Bologna, secondo me la stima potrebbe salire. Oppure ancora che prima della gomma si usava il pane per cancellare i segni della matita. Io ricordo da piccola quando usavo la gomma pane. E a proposito di matite, lo sappiamo, lo sapete che contengono abbastanza grafite per tracciare una linea di 55 km. Sono notizie secondo me molto interessanti, oppure le possiamo catalogare come curiosità inutili che quando scoprirai vorrai raccontare a tutti. Un'altra molto interessante è che il cioccolato al latte era inizialmente venduto come medicinale. oppure ancora che non si può piegare un foglio a 4 a metà più di 7 volte. Facciamo così, Radio Città Fucico vi ispira e vi vediamo se voi riuscite a piegarlo più di 7 volte, fatecelo sapere. Intanto vi ricordo i nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter e il nostro sito www.radiocittafucico.it, dove potete sempre rimanere aggiornati con la nostra redazione. Ma passiamo al prossimo brano. Sapete che io amo i live, mi mancano tantissimi live, ci stiamo avvicinando a forse il primo ufficiale live con il live del 1° maggio e Francesca Michelin sarà una delle protagoniste indiscusse. Cercando musica in queste settimane ho trovato questa versione live all'Arena di Verona di un brano di Calcutta e Francesca Michelin che è Io non abito al mare, quindi ascoltiamocela e viviamo un po' la sensazione di essere tutti sotto lo stesso palco. Immaginare, è ora di andare a dormire, ma la mente che ci porta via, oltre queste poi, sembra una bugia, perché non so nuotare. Queste cose vorrei dirtele all'orecchio, mentre urlano e mi spingono a un concerto. Urlare dentro un bosco, nel vento, per vedere se mi sta ascoltando. Queste cose vorrei dirtele sopra la tecno, accartocciarle dentro un foglio e poi centrare un secchio. Stasera non mi trucco, che sto anche meglio, voglio vedere se mi sta ascoltando. Non mi intendo d'amore, non lo so spiegare, ma quando mangio con te ho paura che arrivi il caffè, che tu sei troppo dolce con me. Vorrei alzarmi da qui, vedere se mi rincorri fuori. Queste cose vorrei dirtele all'orecchio, mentre urlano e mi spingono a un concerto. Urlare dentro un bosco, nel vento, per vedere se mi sta ascoltando. Queste cose vorrei dirtele sopra la tecno, accartocciarle dentro un foglio e poi centrare un secchio. Stasera non mi trucco, che sto anche meglio, voglio vedere se mi sta ascoltando. Se mi sta ascoltando. Una serie di emozioni da evitare, forse meglio se parliamo di università o della Serie A. Queste cose vorrei dirtele all'orecchio, mentre urlano e mi spingono a un concerto. Urlarle dentro un bosco, nel letto, per vedere se mi sta ascoltando. Queste cose vorrei dirtele sopra la tecno, accartocciarle dentro un foglio e poi centrare un secchio. Stasera non mi trucco, che sto anche meglio, voglio vedere se mi sta ascoltando. Se mi sta ascoltando. Io non abito al mare, Francesca Michelin e Calcutta, una canzone live che, se rimanete sintonizzati e sintonizzate, c'è un'altra sorpresa live che vi faccio ascoltare oggi. Ma tornando anche a Lucripedia, lo sapete che impilando tutti i biscotti Oreo prodotti nel mondo si raggiungerebbe la luna e si tornerebbe indietro circa 5 volte, quindi devo dire che ne sono prodotti veramente tanti. Un'altra curiosità è che i trailer dei film erano inizialmente riprodotti dopo il film, da qui in realtà il nome, che in inglese significa anche seguire. Servono 27.000 alberi per tenere il passo della richiesta mondiale di carta igienica. Questa cosa a me fa sempre molto ridere e mi ricorda quando ero in studio e scherzavo con Giovanni e Benny di quella volta che in onda ho raccontato che durante l'Amazon Prime Day io volevo comprare la scorta di carta igienica e Giovanni mi voleva spegnere il microfono, e però ora me lo accendo e me lo spengo da sola, quindi lo posso raccontare. Ma andando avanti, ce ne sono veramente tantissime. Ad esempio, tutte le batterie del mondo potrebbero essere sufficienti ad alimentare il bisogno mondiale di energia per soli 10 minuti. Il primo prodotto al mondo ad avere il codice a barre è stato un pacchetto di gomme da masticare. Ogni giorno vengono prodotti più di 400 milioni di M&M's. È molto divertente perché tantissimi sono inerenti al cibo, quello che noi abitualmente consumiamo. Facciamo una pausa da Lucripedia e ascoltiamo un altro brano che, fatemelo dire, è proprio formidabile. Anche lunedì vi ho fatto ascoltare Stromae, un artista che in questa quarantena, devo dire, sto riascoltando molto, e formidabile. È sicuramente una canzone di quelle che non può mancare nella playlist e non poteva mancare, secondo me, a Radio Città Fujiko, pubblicata nel 2013 e estratta come secondo singolo dal suo album. Io direi che ce l'ascoltiamo, alziamo il volume, balliamo un po' con Stromae. Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré, mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire, vous m'auriez vu hier, j'étais formidable. Ni gentil, si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah, reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sain, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Formidable. Tu es. Formidable qui sui 103.1, abbiamo appena ascoltato Stromae, siamo all'interno del Fujiko Factory di mercoledì e siamo in una sorta di lucripedia, vi sto raccontando, oltre a mettere dei brani, delle curiosità inutili che quando scoprirai vorrai raccontare a tutti, un po' il continuum della puntata di lunedì che insomma mi avete fatto sapere che è stata molto apprezzata, vi piace scoprire nuove cose, a me piace farvi scoprire nuove cose, come ad esempio che lo yo-yo si chiamava inizialmente precisamente Bandalores. Oppure ancora, la compagnia giapponese JKK produce più del 90% delle cerniere mondiali. Riciclare una lattina di alluminio consente un risparmio di energia equivalente al guardare la TV per 3 ore, visto che siamo in un periodo in cui si cerca ovviamente di migliorare le nostre abitudini, anche e soprattutto riguardo questa tematica. Direi che scoprire che se noi ricicliamo una lattina di alluminio e possiamo vedere la TV per 3 ore, direi che è una grandissima conquista in cui effettivamente tutti ci dovremmo impegnare di più. E a proposito di questo, mi viene in mente un link possibile, che è il contest che è ancora valido della nostra radio, di Radio Città Fujiko, Suoni d'Ambiente. Come sempre vi dico di andarvi a leggere sul nostro sito www.radiocittafujiko il regolamento, però siete ancora in tempo per mandare il vostro brano che parla d'ambiente e poter, insomma, vincere una bellissima chitarra, vincere il fatto di aver vinto il nostro contest, scrivere dell'ambiente, quindi è anche un modo per scrivere una canzone con una tematica diversa dal solito e soprattutto essere passati qui sui 103.1. Ma un'altra curiosità di Lucripedia è che l'acqua tonica brilla nel buio, e quindi io non vedo l'ora di comprare l'acqua tonica per provare questa cosa. Oppure ancora, i Lego prodotti nel 2012 potrebbero girare intorno al mondo 18 volte. Il miele, come abbiamo anche in realtà detto anche lunedì, è l'unico alimento che non va mai a male, ma su 20.000 specie di api soltanto 4 producono miele. Lunedì vi avevo raccontato che effettivamente hanno scoperto questa cosa perché nelle tombe d'Egitto hanno ritrovato il miele, ovviamente non l'hanno mangiato, ma tecnicamente potrebbe essere ancora commestibile. Fujiko Factory del mercoledì, mettiamo un altro brano, loro sono i 21 Pilots con Ride. Wanna stay in the sun where I find, I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much, but it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm born, so taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I die for you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. Too many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight, that when people back home will try talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Too much. I've been thinking too much. been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. E siamo tornati qui sui 103.1 Lucripedia. Abbiamo ancora poco tempo, ma vi voglio dire altre curiosità. Ad esempio, la bandiera degli Stati Uniti fu disegnata da uno studente di 17 anni. Fino qui è strano, però la stranezza maggiore è che è stata disegnata da questo ragazzo come parte di un progetto scolastico e il voto che gli hanno assegnato fu B-, che adesso, non conoscendo bene, però sicuramente non è un A+, è un B-, quindi fa molto ridere e rappresenta anche un po', no, quanto in realtà le valutazioni, avere un voto, non vale veramente nulla, perché tu puoi fare un progetto che poi diventa una delle cose più importanti e riconosciute a livello proprio mondiale, quindi hai creato un segno, hai creato un simbolo che poi è riconosciuto in tutto il mondo, insomma deve essere una bella soddisfazione. Un'altra cosa ancora è che la pillola anticoncezionale ha anche effetto sugli scimpanzé. Oppure ancora, l'accendino fu inventato prima dei fiammiferi. Poi non si sa perché hanno usato prima i fiammiferi e poi l'accendino, ma lo scopriremo magari nei prossimi Fujiko Factory. Altro ancora, la prima webcam aveva il compito di controllare il livello di una caffettiera all'università di Cambridge. Le arachidi sono legumi e non frutta secca. Io faccio molta confusione effettivamente tra legumi, frutta secca, quindi ora però ho imparato che le arachidi sono legumi. Dopodiché vi racconto che il 99% dell'oro presente sulla Terra si trova nel suo centro e non è estraibile, quindi se noi potessimo appropriarcene saremmo probabilmente in grado di ricoprire il pianeta con uno strato d'oro di quasi 0,5 metri. Sono tante le curiosità che vi vorrei raccontare, ma ahimè questa mezz'ora si sta per chiudere. Vi ricordo che il nostro Fujiko Factory d'eccezione è fino alle 17. Dopo di me ci sono i miei colleghi, fino a chiudersi con il contributo di Mauro ed Erika del Festival Backpack. E io vi ricordo anche che domani, giovedì ore 15, mando in onda la mia puntata dance. Quindi se avete voglia di ballare e di scatenarvi, non vi resta che sintonizzarvi anche domani sulle frequenze di 103.1, puntualissimi alle 15 per molta molta musica dance. Posso spoilerarvi che ci sarà, non lo so se ve lo dico o non ve lo dico, qualcosina dai posso dirvela, ci sarà Gabri Ponte, gli FL65, Franchino, ho messo Franchino in radio, quindi non potete che sintonizzarvi domani e rimanere sintonizzati fino alle 17 anche oggi con il Fujiko Factory. Io vi saluto però con un'altra canzone live, sperando di poterci incontrare tutti molto presto con le transenne tra le costole. È sempre Calcutta insieme a Francesca, questa canzone devo dire che è già bellissima anche in versione studio, ma versione live ti regala quel qualcosa in più che appunto solo un concerto all'Arena di Verona o in qualsiasi spazio aperto ti può creare. Quindi io vi saluto con Del Verde. Preferirai che non esistesse il mondo, nemmeno la città più bella che abbia visto. Preferirai perderti nel bosco che per un posto fisso. Preferirei una spiaggia di Sardegna. Preferirei scaldarmi con la legna. Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare, ti presterò dei soldi per venirmi a trovare. Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte, soltanto per viaggiare. E una notte, una notte, una notte, per ricominciare. Grazie.